Transizione di fase, una radio rilassante. Vem uma canção, duas notas só, só você e eu, amor. Duas notas só, só você e eu, amor. Duas notas só, só você e eu, amor. Radio Transizione di Fase, la radio senza amici di Maria De Filippi. We are the music makers. E di nuovo buonasera a tutti, questa è sempre Pink Moon. Questa sera, come da giusta conclusione, almeno sicuramente per la pausa estiva, così me ne vado anch'io in vacanza. Nemmeno avessi un grosso fardello, tant'è che Pink Moon trasmette solamente ogni lunedì, però alla fine è sempre un piacere. E se ne andrà in vacanza, poi magari vi terremo aggiornati su una eventuale riproposizione del programma, che però questa sera ci vede impegnati in un argomento che proprio sta alla base di questa trasmissione, che si chiama Pink Moon ed è Nick Drake. Parleremo più o meno di lui e sarò da solo, ve lo dico subito, anche perché è un accollo strano e è difficile, lo ammetto, trasmettere da soli, però ci provo ogni volta. È sempre meglio quando ci sono gli ospiti, però sti cazzi, forse questo argomento e quest'artista è un qualcosa di intimo per chi lo conosce, e quindi forse è meglio trattarlo con un minimo di serietà, sperando di essere sempre mai troppo seri. Io andrei con la sigla e ci ritroviamo dopo. Thank you. Ed era l'immancabile sigla. Come dicevo, questa sera parleremo di Nick Drake, però devo ammettere che non è stato un tema che... Cioè, non era un tema su cui immaginavo dover fare questa puntata, se non che chiedendo ad un mio amico, ma senti, hai magari suggerimenti e consigli su cosa poter fare la trasmissione questa sera, ma non perché noi di transizione di fase non abbiamo idee, ma ne abbiamo troppe, questa è la cosa, e poi dargli una versione pratica e concreta è difficile, quindi abbiamo bisogno di qualcuno che ci consigli e che ci dica la risposta che abbiamo davanti e che non riusciamo ad afferrare. Il simpatico Roberto mi ha detto: ma perché non la fai su Nick Drake, che è ovviamente colui il quale, l'alieno se così vogliamo dire, ha dato vita a questo disco che si chiama Pink Moon, che se molti di voi prima di ora non l'avessero mai saputa, questa cosa lo impareranno a scoprire, penso, nelle prossime 2 ore, cosa che Drake avrebbe odiato prima di tutti lui, ossia il fatto di poter parlare in sole 2 ore di una cosa che invece potrebbe portarci via degli anni, ma questi sono altri discorsi e io la smetto di svarionare e inizio col dire che Drake è una specie di alieno. Perché? Perché non c'è stata in nessun caso, in nessun ambito musicale almeno, poi per quanto riguarda le altre arti non lo so, può darsi qualche artista figurativo, performers pazzo l'avrà fatto anche lui, però Drake era una persona che innanzitutto è morta a 26 anni, quindi nel pieno della sua giovinezza, e che in 5 anni ha dato vita a 3 album che sono considerati dei capolavori, l'ultimo dei quali è appunto Pink Moon. E una cosa che odiava lui, e che forse è stata la causa della sua depressione, era il fatto di promuovere, cioè tutto quello che lui componeva, non, nella veste promozionale, pubblicitaria, ossia il fatto di fare tour, concerti, interviste, televisioni, e quindi rendere appetibile quello che lui cercava di comporre, non gli andava a genio. La vedeva ovviamente come una cosa svilente, che dovrebbe essere così, ci dovrebbe fare riflettere, però... è ovvio che nell'industria musicale tutto questo non possa essere grandemente apprezzato, anche se l'Island Records è stata quasi una madre per lui e non un'etichetta discografica, perché lo ha stimolato, ha tentato di capire la sua indole, tentando poi di riacchiapparlo dai capelli. Però la sua parabola discendente è stata qualcosa di unico, perché un artista che fa i primi concerti, forse Brian Wilson lo ha seguito, ossia fa i primi concerti, si rende conto che il rapporto con il pubblico, che magari fa chiasso, chiacchiera, beve, ubriaco, fa rumore, per una musica così discreta come la sua non è il massimo. Però per fortuna ad una di queste primissime esibizioni alle quali, per sfortuna, nessuno di noi, penso, abbia mai assistito, c'era fra il pubblico il bassista dei Fairport Convention, che erano un gruppo folk rock inglese attivo durante la fine degli anni 60, inizio anni 70. E il bassista di questo gruppo si ricorda una specie di alieno, appunto, con i capelli lunghi, da una presenza scenica veramente incredibile, ma non per il fatto che prendesse la chitarra e la stampasse sul muso di uno spettatore o cose così, ma perché riusciva ad avere una grana di voce, una presenza, un carisma così rassicurante che nemmeno Ashley Hutchings si ricorda con chi stesse suonando Nick Drake in quell'esibizione. Lui ricorda solamente la voce e l'esibizione di Nick. E prima di andare a sentire due pezzi tratti dai primi due album di Drake. Per poi concentrarci su Pink Moon, io vi farei sentire il pezzo più famoso dei Fairport Convention, perché sono un gruppo non molto noto, se non magari a qualche malato e anche a Scaruffi, che è malato sì, però diciamo è un'altra storia. Loro sono i Fairport Convention e questa è Genesis Hall. Ed è proprio il bassista di questo gruppo, dei Fairport Convention, che nota Nick esibirsi in un locale di Londra, alla Roundhouse, e viene affascinato principalmente dalla sua grana di voce, una cosa che tutti i malati di Nick Drake adorano, è il fatto che fra milioni di cantanti si potrebbe scovare ad occhi chiusi, come può succedere per molti timbri famosi, da Dylan a Guccini, senza perdersi poi in troppi giri di parole. Però il fatto che la sua grana di voce non sia accostabile a nessun altro timbro. È una cosa che fa rimanere colpiti all'inizio, perlomeno. Ma non solo per il timbro di voce, fu colpito anche da una tecnica chitarristica strana. Innanzitutto suonava solamente in acustico, una chitarra acustica, e la particolarità di Drake era quella di non usare l'accordatura classica e canonica che la maggior parte degli strumentisti rock adottava all'epoca. Perché dobbiamo ricordare che Drake fa il suo esordio nel 69, proprio lo stesso anno di Woodstock, e quindi anche lo stesso anno della nascita dell'hard rock, di Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, quindi un anno molto chiassoso, e i Beatles essi stessi avevano appena concluso la loro carriera con Abbey Road, quindi la sua presenza era un qualcosa di strano e di singolare. Il fatto che lui dopo questo primo album che si chiama Five Leaves Left del 69 avesse 20 anni l'ha, per come dire, un po' terrorizzato, soprattutto il rapporto con il pubblico, perché principalmente l'etichetta, anzi il produttore Joe Boyd, che cercava di promuoverlo, lo stimolava, cercava di stimolarlo a effettuare dei concerti in maniera tale che potesse promuoversi, anche perché all'interno dell'industria musicale, se non promuovi il tuo album, anche ai tempi, dopo con un tour e con dei concerti live che ti facciano conoscere, sei un pazzo suicida, e Drake era per l'appunto questo. E nemmeno un concerto al Royal Festival Hall nel 69, proprio di spalla ai Fairport Convention, non riuscì nemmeno quello a lanciarlo, poiché lui fece un grande concerto, il pubblico andò proprio in visibilio, fu applauditissimo, ma lui ha lasciato il palco in quell'occasione veramente con terrore. Il pubblico che, appunto, come dicevo prima, chiassoso e ultra molesto, magari, che vocia e chiacchiera, non lo attirava, ma non faceva altro che allontanarlo dal contatto con il pubblico. E quindi per Joe Boyd era una cosa impossibile promuovere un artista del genere. Questo fu il primo concerto di Drake, ce ne sarà poi un altro del quale parleremo, però poi Drake abbandonerà i live, i concerti. Fino alla sua morte. Non avremo nemmeno un videoclip, niente da poter vedere. Su internet non si trova niente di tutto questo. Si rincorrono dei video della sua infanzia che possono essere benissimo dei fake, pur di non credere al fatto che un artista così particolare non abbia lasciato tracce di sé, se non proprio questi album. Andiamo a sentirci dal primo album, dal ventenne Drake, che avrebbe compiuto 21 anni di lì a poco. Andiamo ad ascoltarci Days Gone. Day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done, when the day is done, hope so much your race will be all wrong. Then you find to jump the gun, have to go back where you began. When the day is Some get by, but some get old, just to show life's not made of gold when the night is cold, when the bird is flown. Got no one to call your own, got no place to call your home when the bird has flown. When the game's been fought, newspaper blown across the court, lost much sooner than you would have thought. Now the game's been fought, when the part is through, seems so very sad for you, didn't do the things you meant to do. Now there's no time to start anew. Now the part is through, when the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done. È direttamente dall'esordio di Drake da Five Leaves Left. Questa era la sua voce, il suo modo di suonare, che impressionò quasi tutti i produttori e i discografici che stavano all'epoca cercando qualcosa di forte e di accattivante dopo Woodstock. Solo che c'era un piccolo problema, appunto, che Drake non fosse fra le persone, fra gli artisti più socievoli e realmente focalizzati su ciò che volevano fare. Era una specie di cantautore sempre con la testa per aria, e dava sempre l'impressione anche ai suoi amici, da un certo periodo della sua vita in poi, perché ha avuto anche un'adolescenza piuttosto felice, ovviamente immersa nella natura, e questa la sua poetica. La sua poetica ne risente assai. Subito dopo lui sembra quasi perdere contatto con la realtà, tranne che per sfornare proprio questi pezzi. La cosa assurda è che John Boyd ritenta di far suonare Nick, anche perché la maggior parte della gente che ha potuto conoscerlo, purtroppo poca, proprio per via del fatto che la promozione era un grosso problema, la maggior parte della gente diceva a John Boyd che valeva la pena farlo conoscere un po' in giro per l'Inghilterra, e addirittura nel 70 Nick suona ancora una volta di spalla ai Fairport Convention, solo che questa volta è ancora peggio dell'esordio, perché lui è nervosissimo, non riesce nemmeno a comunicare con chi ha sul palco, figuriamoci se riesce a comunicare qualcosa al pubblico. Infatti finisce il suo concerto, dice qualche parola di ringraziamento e poi se ne va via, quasi scappando, intimorito. John Boyd lì capisce che non potrà contare su di lui per ben 8 concerti che aveva preparato nel nord dell'Inghilterra, e decide di sfruttarlo perlomeno in quel periodo, sperando poi in una schiarita, in una ripresa dell'attività live. Tenta di sfruttarlo via disco. E il secondo disco di Drake vede addirittura all'opera John Cale, il violista dei Velvet Underground, che ovviamente, una volta sentita la voce di Nick, decide subito di collaborare. Infatti Brighter Later è l'album che viene pubblicato nel 70, è l'album più arrangiato, e addirittura il produttore dopo dirà che non, forse è stato l'unico album nel quale una volta riascoltato non avrebbe poi modificato niente, perché suona appunto forse troppo perfetto, però è senza dubbio un grande album proprio per questo intervento di John Cale alla registrazione. Andiamo a sentirci Fly, che è un inno quasi di Drake, viene usata spesso diciamo dal 2000 in poi, perché Drake appunto in vita non godette di molta fama, ma da un certo periodo in poi è stato riscoperto alla grande e quindi usato spesso per molte colonne sonore di film. Ricordiamo questa traccia Fly usata da Wes Anderson nei Tenenbaums. Questa è Nick Drake e la canzone Fly. Please give me second grace. Please give me second face. I've fallen far down the first time around. Now I just sit on the ground in your way. Now, if it's time for recompense for what's done, come sit down on the fence in the sun, and the clouds will roll by, and we'll never deny, it's really too hard for the fly. Please tell me your second name. Please play me your second game. I've fallen so far for the people you are. I just need your star for a day. So come ride in my streetcar by the bay. For now, I must know how fine you are in your way. And the sea, she will sigh, but she won't need to cry. For it's really too hard for the fly. Questa era Fly direttamente da Brighter Later di Drake del 70. Anche quest'album purtroppo non vide fortuna, non andò oltre le 15.000 copie, quindi non era nemmeno un risultato malvagio, però nemmeno niente di eccezionale. E quindi il produttore dell'Island Records non si scoraggiò, non capiva il perché Nick non volesse esibirsi più dal vivo, non volesse nemmeno intraprendere qualche mini tour anche solo in Inghilterra, perché non volesse fare un videoclip, se videoclip si poteva parlare, se di videoclip si poteva parlare all'epoca, oppure di concedere qualche intervista. Cosa che però fece, ma con risultati veramente pessimi. Nel 71 diede un'intervista per una rivista inglese che però non venne seguita da nient'altro, fu una specie di fiasco. E anche per essere ritratto nelle copertine dei suoi album, Drake era molto, molto schivo. Lo dovevano quasi beccare di sfuggita o a sua insaputa, e le poche volte che si metteva sì, davanti alla macchina fotografica, non riusciva mai quasi mai a guardare l'obiettivo, così come non riusciva e non sopportava il fatto che la gente potesse vociare, chiacchierare animatamente anche davanti ad un suo concerto, ad una musica così discreta. Forse John Martin era, ora non, mi sfugge il nome, l'ho letto nella biografia di Drake che ho rispolverato velocemente. Diceva: per me era una cosa molto diversa riuscire a zittire il pubblico, poiché alla fine era un live molto più energico e quindi riuscivo senza dubbio a poter zittire, a urlare fra un pezzo e l'altro, state zitti al pubblico. Per Drake era quasi impossibile questa cosa, vista la discrezione della sua musica. E quindi addirittura il produttore dell'Island Records diede le chiavi della sua villa in Spagna a Drake per andare lì e cercare di rilassarsi un attimo e di sfuggire ancora di più al circuito mediatico. Fu una specie di mini successo, poiché ritornò dalla Spagna con dei nuovi pezzi che vennero registrati in 2 sole notti di lavoro. Vennero registrati tra l'altro con una specie di blocco interiore che era quasi impossibile rimuovere, perché addirittura Drake non riusciva a stare nella stessa sala con i tecnici del suono di fronte a loro, eseguendo le canzoni, e quindi si mise contro un angolo del muro e i tecnici del suono cercarono di microfonarlo al meglio, pur di non guardarli negli occhi, pur di non stargli davanti. E questa cosa già faceva venire in mente poi il suo sempre più graduale distacco dalla realtà e da tutto il mondo che lo aveva circondato fino a quel momento. Solo che nella sua proposta di questi 11 pezzi ai tecnici del suono, ai produttori dell'Island Records, tutti quanti rimasero sconvolti dalla bellezza di questi pezzi, che formano senza dubbio il capolavoro di Drake. E andiamo ad ascoltarci la title track, che è appunto Pink Moon. I saw it written and I saw it say, Pink moon is on its way. None of you stand so tall. Pink moon, gonna get you all. And it's a pink moon, yeah, pink moon. Pink. Thank you. Zoe written and a Zoe say. Bingo moon is on its way. None of you stand so tall. Bingo moon, gonna get you. Ed era la title track, appunto, Pink Moon, dall'omonimo album di Drake. E c'è da dire che tornò dalla Spagna, da quel soggiorno regalato dal produttore, con le idee abbastanza chiare, nel senso che dopo un album come Brighter Later, che era molto arrangiato, molto saturo di strumenti, Drake prese quasi fu preso da un moto di coscienza e si guardò allo specchio e disse: bene, io quest'ultimo album, perché probabilmente sapeva che non sarebbe durata molto la sua avventura in questo pianeta, ha detto: beh, questi ultimi pezzi li faccio solamente voce e chitarra acustica, con magari qualche aggiunta, ma veramente minimale. Infatti è paradossale come il tecnico del suono John Wood gli disse di ripresentarsi agli studi 2 o 3 giorni dopo le due fatidiche notti nelle quali avevano registrato il disco, per elemosinargli almeno una parte di piano leggerissima, questa che abbiamo appena sentito su Pink Moon. E dopo che consegnò quei brani, lui si eclissò per un bel periodo e fu una specie di ritorno alla sua casa materna, quella di Tamworth in Arden. Un villaggio immerso nella natura e che spesso riusciva a placare questi suoi mostri, questa sua incapacità di comunicare se non con le canzoni. Il suo unico mezzo espressivo era questo, e anche tutti i suoi amici ricordavano come fosse veramente difficile, soprattutto negli ultimi anni della sua carriera, avvicinarlo per sentirlo parlare un po'. Spesso imbracciava la chitarra e si perdeva in un mondo tutto suo. La poetica di Drake è quanto di più alto, ma alto considerato considerato come staccato da terra, non in senso di superiore. Quanto di più etereo e staccato dal mondo possibile. Gli unici accenni al mondo sono quelli bucolici, e quindi quelli che ricordano la sua infanzia a Tamworth in Arden. E, più o meno come stile chitarristico si differenziava dalla maggior parte dei classici suonatori che a quel tempo andavano in voga. Dylan dal 70 al 73, come sappiamo, ebbe quella specie di esilio mistico dopo gli incidenti in moto, e quindi c'era bisogno che qualcheduno prendesse il suo posto, diciamo, almeno discograficamente parlando, per quanto riguarda l'industria musicale. Però il fatto era che proprio Drake non riusciva nemmeno a mettersi in posa per delle sessioni fotografiche, figuriamoci a andare a farsi i chilometri per intraprendere concerti qui e là e tour promozionali. Questa seconda traccia, direttamente da Pink Moon, si chiama Place to Be ed è anch'essa solo chitarra e voce, molto minimale, registrata, si dice, in 2 minuti filati. When I was young, younger than before, I never saw the truth hanging from the door. And now I'm all to see you face to face. And now I'm all. Questa era Place to Be, direttamente da Pink Moon. Volevo dire una cosa su molta gente che paragona, se non altro, le due figure di Drake e Robert Johnson. Robert Johnson, ovviamente, padre incontrastato del blues, colui il quale tra il 36 e il 37 registrò 29 canzoni che poi sarebbero passate alla storia del blues. Forse la prima vera concretizzazione di quel genere che a quel tempo dava sollievo a buona parte dell'America meridionale. Sono state accostate insieme, oltre alla chiave acustica che i due danno alle loro composizioni, ma anche per il fatto di essere molto, molto timidi per certi versi, soprattutto in studio di registrazione. Si ricorda che Robert Johnson quei 29 pezzi, proprio come Drake, registrò Pink Moon davanti ad un angolo di stanza per non guardare nessuno dei tecnici del suono e degli altri presenti per eccessiva timidezza. Anche Robert Johnson ebbe problemi di questo tipo e addirittura dovettero rassicurarlo sul fatto che i tecnici del suono non lo avrebbero guardato nel mentre lui stava registrando di faccia al muro. Addirittura aveva imposto che i tecnici del suono fossero in un'altra stanza e lui da solo con al massimo una persona, però gli fecero capire come fosse una richiesta alquanto improbabile. Allora registrò solamente a patto che potesse farlo con un muro davanti e nient'altro. Stessa cosa per quanto riguarda Drake. Ai tempi di Johnson, ovviamente, i live non erano una cosa molto ben diversa rispetto all'inizio degli anni 70, quindi subito dopo Woodstock, il live non aveva l'importanza che ha oggi, anche perché il prodotto discografico più allettante e più redditizio in quegli anni era senza dubbio l'album, che doveva essere promosso con un tour, con dei concerti, mentre oggi è tutto il contrario, semmai è l'album che serve a promuovere poi il tour degli artisti. Ai tempi di Robert Johnson il live forse non veniva ancora immaginato quale quello di Woodstock o di tante altre esibizioni che poi si sarebbero succedute dopo la Seconda Guerra Mondiale, e ai tempi di Drake invece il live era qualcosa di fondamentale. E il fatto che per un attimo addirittura i produttori dell'Island Records temessero che oltre al live stessero per perdere Drake anche in studio per questo suo eccesso di timidezza, stava quasi per far abbandonare il progetto di promozione, tra virgolette, di quest'artista. Per fortuna in queste due notti leggendarie di lavoro Drake riuscì a suonare questi pezzi. E la prossima traccia che andiamo ad ascoltarci è Rod. C'è da dire molto sulla tecnica chitarristica di Drake, perché era qualcosa di non inedito, perché molti suonatori, non molti dai, molti virtuosi forse di chitarristi di quell'epoca amavano ascoltare, provare, riproporre delle tecniche che non erano propriamente occidentali, di musica occidentale, nel senso che buona parte delle musiche folk in genere si basa su approcci molto diversi rispetto a quelli classici che tutti quanti noi conosciamo meglio, forse la musica popular. E senza dubbio la presenza di note come possono essere quelle magari del bordone per una comunissima zampogna che appunto detta la tonalità poi sulla quale si andrà ad eseguire la melodia è una cosa principalmente della musica folk, una cosa che nella musica popular si sente poco spesso. E Drake ovviamente usava una tecnica chitarristica che prevedeva queste cosiddette accordature aperte, ossia in una chitarra classica normale accordata in maniera canonica si ha una successione di note sulle corde ben predefinita. Poi ovviamente si possono accordare dei toni o semitoni più in alto o più in basso per delle esigenze di voce, però quello che faceva Drake era addirittura accordare ogni corda in modo tale che andasse a formare un accordo maggiore nel momento in cui tutte le corde della chitarra venivano suonate a vuoto. Spesso suonava in sol e spesso questa cosa lo aiutava nel poter fare questi suoi, tra virgolette, virtuosismi, che sono ben lontani da quelli magari dei Guitar Hero che di lì a poco sarebbero nati e che io principalmente odio, ma anche se con le dovute eccezioni. Però si può senza dubbio parlare di virtuosismo chitarristico nei confronti di uno strumento acustico, la chitarra, che fino a quel momento aveva avuto sperimentazioni, soprattutto da parte dei Beatles e altri chitarristi, ma che non aveva mai utilizzato così tante accordature per ogni diverso pezzo. Infatti la riluttanza ad esibirsi in pubblico era dovuta principalmente al fatto che Drake non riuscisse a sostenere il pubblico, il contatto con esso e tutto quanto quello concerne il fatto di dover essere sciolti in una situazione del genere, con una musica così intima. Però anche dal fatto che si rese conto che veramente 10-15 canzoni del suo repertorio erano accordate tutte alla stessa maniera, ossia in maniera classica, mentre tutte le altre avrebbero tolto almeno 2 minuti a pezzo nel tentativo di accordarle ogni volta in maniera diversa. Questa particolarità di questa tecnica chitarristica lo rese famoso soprattutto nei suoi viaggi. Lui, prima di cadere in questa depressione che poi lo porterà pian piano a spegnersi, fece a 18 anni, poco prima, 2 anni prima di dare alla vita il suo esordio, fece dei viaggi in Marocco, in Francia con i suoi amici. Ogni qualvolta Drake si metteva a suonare da solo con la chitarra, la maggior parte delle volte si dà vita ad un falò, ad una caciara bestiale, la cosa che faceva lui era quella di azzittire tutti e renderli partecipi di quelle straordinarie note e melodie. In Witch Will questo è abbastanza afferrabile, ed è il quarto pezzo di Pink Moon, ed è appunto Witch Will. Which will you go for? which way you love, which way you choose from. Which way you answer, which way you call, which way you take for your one and all. Tell me now, which way you which do you dance for? Which makes you shine? Which way you choose now? If you won't choose mine, which way you hope for? Which can it be? Which way you take now? If you won't take me, tell me now, which way you love best? Questa canzone Which Will parla di una figura femminile, le donne, il sesso femminile nella vita di Drake sono state qualcosa di molto impalpabile, nel senso che fino a 18-19 anni era una specie di non che fosse il guascone rimorchione che magari rimorchiava tutte le ragazze in viaggio, però riusciva a suscitare un certo fascino. Solo che alla fine del primo album, Five Leaves Left, lui venne contattato da una giovane cantautrice francese, una bellissima cantautrice francese, era Françoise Hardy forse. E in pratica lui rimase quasi scioccato da questa cosa, e subito dopo quel più che infelice ultimo live che lo vide scappare quasi dal palco intimorito dalla gente, lui prese la macchina perché stranamente amava guidare. Questa cosa ancora non l'ho ben capita, forse perché guidava spesso da solo e faceva questi lunghissimi viaggi in solitaria. Una volta, proprio dopo quest'album e questa esperienza, andò addirittura a trovarla in Francia, e non si sa se i due si siano mai frequentati durante quel viaggio, se addirittura si siano mai incontrati. Si dice appunto che lei volesse fermamente collaborare con lui dopo aver sentito il suo album d'esordio. Ricordiamo che Drake muore a 26 anni, quindi parliamo sempre di un 22-23enne, e quindi forse tutta questa sua immaturità, ma questo suo essere fuori dal mondo lo bloccava senza dubbio. E nella sua registrazione, quella famosa di Pink Moon, decise di inserire un brano che appunto scrisse durante quel viaggio in solitaria. Il brano si chiama Horn. E dopo questa strumentale, ovviamente Drake ha un'esigenza prima di tutte le altre, ossia se principalmente nella sua poetica ha sempre cantato di situazioni più che etere, più che staccate dal mondo terreno, in Things Behind the Sun, cioè proprio le cose che stanno dietro il sole, quindi magari dietro la verità, e quindi forse tutto ciò che conta, fa una specie di accusa al mondo nel quale era immerso subito dopo il primo disco. E quindi, anche se ha avuto dietro una casa discografica, l'Island Records, e delle persone che hanno sempre creduto in lui, anche quando vedevano quanto fosse difficile promuoverlo e farlo conoscere al mondo proprio per questa sua timidezza, e quindi già partire con un artista che rifiuta categoricamente di esibirsi in pubblico è come dire che il 99% delle etichette lo avrebbero sicuramente abbandonato e lasciato al suo destino. E lui in Things Behind the Sun cerca di affermare che tutto quel mondo fatto di, appunto, pubblicità, promozione, di opportunismo e di, come dice lui, una bellezza presa in prestito non faceva proprio per lui. E quindi in pratica parla un po' a tutti quanti quelli che hanno avuto modo di conoscerlo e consiglia loro di guardarsi da tutto questo mondo effimero. E quindi ovviamente il sole e tutti gli elementi naturali, soprattutto questo blu che è un colore ricorrente. Non solo perché forse l'apoteosi della tristezza, anche perché amava circondarsi proprio di questi colori molto, molto pacati, soprattutto nella sua villa a Tamworth in Arden. Questo sembra quasi essere un po' il suo testamento. E in Things Behind the Sun riesce a mettere in pratica tutto questo e a esprimere un messaggio molto più rivolto alla terra che altrove. Questa è Things Behind the Sun. Please beware of them that stare, they'll only smile to see while the time away. And once you've seen what they've been to, and the earth just won't seem worth a night or a day. Oh yeah, what I say. Look around, you find the ground is not so far from where you are. Don't be too wise. For down below they never grow, they're always tired, and charms are hired from out of their eyes. Never a surprise. Take your time and you'll be fine. Say a prayer for people there who live on the throne. If you see what's meant to be, don't name the day or try to say it happened before. Don't be shy, you learn to fly and see the sun and day is done. If only you see. Just what you are beneath a star that came to say one rainy day in autumn for free. Just be what you be. Thank you. beware of them that stare, they'll only smile to see you while you time away. And once you've seen what they have been to, when the earth just won't seem worth your night or your day. Oh yeah, what I say. Open up a broken cup, a goodly sin, sunshine in. Yes, that's the day. And open wide the hymns you hide, you find renown where people found things that you say. Say what you say about the farmers and the fun and the things behind the sun. Say everything's been said, and the movement in your brain sends you out into the rain. La cosa che cercavano di fare capire tutti quanti, almeno gli amici, ma soprattutto i produttori, che sono stati anche fra le persone che l'hanno più compreso e forse più stimolato, è che se, cioè, per avere una certa fama, un certo successo, qualsiasi artista, anche il più talentuoso, deve darsi da fare. Quindi deve promuoversi, deve sottostare anche controvoglia a determinate logiche, che possono essere quali quella di rilasciare interviste o essere più o meno presente nei magazine, per non dire poi dell'attività live della quale abbiamo già parlato e della quale Drake non voleva saperne. Un po' come Brian Wilson, il genio dei Beach Boys, che diede alla luce Pet Sounds praticamente praticamente avendo abbandonato, dopo i primi concerti con i Beach Boys, le scene live, e quindi facendo tutto quasi a tavolino. Due figure molto molto simili, che avevano molti molti tratti in comune. Senza dubbio non riusciva a fare quello che faceva Dylan. Un aspetto del carattere di Dylan e della vita di Dylan che lo ha contraddistinto per tutta la carriera, che è rappresentato molto bene in un episodio del film Io non sono qui, forse l'unico episodio che mi ha completamente convinto, però comunque consiglio lo stesso di vederlo, se non anche in Don't Look Back di Penn & Baker, dove il carattere di Dylan molto, molto scontroso nei confronti dei media, proprio perché aveva capito tutto l'opportunismo della gente che gli stava attorno, però riusciva lo stesso a sfornare dischi e a esibirsi soprattutto live, non perdendo mai quel suo aspetto provocatorio, e quindi aveva una sorta di ironia che contrassegnava tutte le sue conferenze stampa, e riusciva così a esorcizzare quel circo mediatico del quale Drake non sapeva nemmeno come avvicinarsi. E soprattutto il fatto che non riuscisse ad avere commercialmente, quindi in fatto di industria musicale, fosse molto sterile, poiché oltre i 20.000 dischi non si spinse mai la sua produzione, quindi in vita non riuscì quasi mai a essere pienamente soddisfatto di quello che faceva. Pensava che tutto quello cui dava vita non fosse abbastanza per riuscire a farsi capire. Invece, fortunatamente, ringraziamo la Nike e la BMW per questa riscoperta, anche poiché molti pezzi di Drake e quindi tutta la sua figura sono state riscoperte, purtroppo, per fortuna, questo decidetelo voi, tramite anche delle mosse pubblicitarie azzeccate. Questo è proprio un triste destino il suo, no? Non so se sarebbe stato contento, senza dubbio no, avrebbe preferito rimanere sconosciuto ai più. Però senza dubbio questo suo carattere schivo e questa soprattutto cosa singolare di non trovare alcuna sua esibizione live, cioè se voi andate a cercare su YouTube, sul quale ora si trova veramente anche il più illustre degli sconosciuti, non riuscirete a trovare nessun video live di Drake, tantomeno qualche intervista. E andiamo al prossimo pezzo, è un'altra anima di Drake che era molto presente, come abbiamo detto prima, molte volte è stato paragonato a Robert Johnson, il re del blues. E qui è la penultima volta che fa uscire forse questo suo lato maledettamente triste e maledettamente blues. Per questo lo farà l'ultima volta nell'ultima sua registrazione, prima appunto di spegnersi a soli 26 anni, con Black Eyed Dog, che ascolteremo poi più in là, che sarà veramente un testamento sonoro alquanto scioccante, poiché la voce di Drake lì si fa molto molto sofferta. Questa intanto è No. Questo era No, direttamente da Pink Moon, l'ultimo lavoro di Drake. E Pink Moon è stata una specie di lavoro molto travagliato, ossia si narra che dopo la registrazione i nastri furono consegnati a lui stesso per essere riascoltati. Drake si fece vivo più o meno un paio di giorni dopo la registrazione, consegnò in segreteria questi nastri all'Island e scomparve totalmente. Se qualcheduno dell'etichetta avesse voluto convincerlo ulteriormente a fare un minimo di promozione, se non fosse per i tour, i concerti, che ormai erano qualcosa di lontanissimo e di improbabile per il suo carattere, almeno rilasciare qualche intervista oppure fare qualche conferenza stampa, cosa che però col passare del tempo si fece quasi sempre più difficoltosa. E in Parasite, il prossimo brano, lui fa una specie di confessione, ossia ammette di essere stato quasi sempre in un altro mondo, non quello terreno, e chiede quasi scusa a forse l'unica persona che l'unica sua fiamma, l'unica figura femminile nella sua vita che era riuscita per un poco ad avvicinarlo, però dopo aver tentato più e più volte di stimolarlo, gettò la spugna, e quindi Drake si ritrovò di nuovo da solo a scrivere questa Parasite. Lifting the mask from a local clown, feeling down like him. Seeing the light in a station bar and traveling far and thin. Sailing downstairs to the northern line, watching the shine of the shoes. Hearing the trials of the people there, who's to care if they lose? But take a look, you may see me on the ground. For I am the parasite of this town. Dancing a jig in the church with chimes, a sign of the times today. And hearing no bell from a steeple tall, people all in dismay. Falling so far on a silver spoon, making the moon for fun. Changing a rope for a size too small, people all get hung. Take a look, you may see me coming through. For I am the parasite who travels two by two. I'm lifting the mask from a local clown and feeling down like him. And I'm seeing the light in a station bar and traveling far and thin. And I'm sailing downstairs to the northern line, watching the shine of the shoes. And hearing trials of the people there, who's to care if they lose? Take a look, you may see me on the ground. For I am the parasite of this town. Take a look, you may see me. I am the parasite who hangs from your skirt. non riuscivo a ricordare il nome di chi fosse. Chi fosse il musicista che aveva fatto questo paragone tra Robert Johnson, il padre del blues, e Drake, proprio per la genesi stessa delle due registrazioni, ossia le 29 canzoni che Robert Johnson tra il 36 e il 37 registrò in una stanza d'albergo, appunto sempre con la faccia al muro. Molti dicevano perché fosse attratto da quel particolare suono che assumeva la sua chitarra, se direzionata proprio in un angolo della sua stanza, però poi si venne a scoprire che Robert Johnson era una specie di alieno anche lui, che rifiutava qualsiasi gabbia, fosse anche quella di dire siediti qui e registriamo questi pezzi per poi magari promuoverti. Drake era forse ancora più estremo in questo, e Peter Buck, il chitarrista dei REM, che poi si è rivelato un grosso fan di Drake, ha sempre sostenuto questa specie di parallelo tra Robert Johnson e Drake. La cosa strana è che l'ultima registrazione di Drake, Black Eyed Dog, era sempre contornata da una sua affermazione ai pochi intimi amici con i quali aveva la fortuna di ritrovarsi, quella di sentirsi un cane infernale sempre appresso, cosa che anche Robert Johnson in molti dei suoi pezzi, da buon bluesman e da buon eretico che fa il patto col diavolo per scrivere quei 29 pezzi, amava ripetere spesso, ossia accomunare il malessere, la tristezza e tutto quanto a questa specie di cane infernale. Johnson si disse che fece questo patto col diavolo sia per la canzone famosissima Crossroads, che poi venne ripresa da Clapton e venne accelerata e appesantita dai Cream, però senza dubbio molta gente afferma che in quegli anni 30 vide Robert Johnson imbracciare la chitarra in un periodo e quasi si stupiva del fatto di averlo ritrovato poi 2-3 anni dopo e vedere come fosse totalmente cambiato, sia come approccio ma sia come tecnica chitarristica. Sembrava quasi fosse un'altra persona, e da qui e da Crossroads si parlò di questo patto col diavolo. Drake semplicemente tentò di registrare altri pezzi dopo Pink Moon, però addirittura il produttore John Wood affermò che non riusciva nemmeno più a cantare e suonare insieme, quindi dovettero innanzitutto registrare prima le parti di chitarra e poi aggiungere la voce in seguito, tanto per rendere l'idea di quanto fosse ormai fuori dal mondo Drake. Gli ultimi capitoli del suo ultimo album in studio, perché poi andremo a finire con delle chicche riprese ovviamente da uscite postume, poiché Drake dopo Pink Moon ebbe una specie di crollo, però riuscì lo stesso a registrare qualcosa appunto con John Wood, però non riuscì mai a dare alla vita questo quarto album. Potremo ascoltare poi qualche estratto di queste registrazioni dopo. Intanto ci sono gli ultimi capitoli di Pink Moon, e sono Ride, Harvest Breed e From the Morning, che è quasi il suo ultimo testamento. Thank you. calling, won't you give me a free ride? Hear me calling, won't you give me a free ride? I know you, I get to see through all of the pictures that you keep on the wall, all of the people that will come to the ball. But hear me calling, won't you give me a free ride? Hear me calling, won't you give me a free ride? Just be the end. Falling fast, you stoop to touch and kiss the flowers that bend, and you're ready now for the harvest breed. Day one stormed, and it was beautiful. A day one stormed from the ground. Then the night she fell, and the air was beautiful. The night she fell. Look, see the days, the endless colored ways. Go play the game that you learned from the morning. And now we rise. We are everywhere, and now we rise from the ground. See, she flies, she is everywhere. See, she flies all around. Look, see the sights, the endless summer nights. Go play a game that you like for the morning. Dopo Pink Moon praticamente scomparve da qualsiasi posto pubblico, si ritirò nel suo villaggio a 3 ore da Londra, a Tamworth in Arden, e appunto nel novembre del 74, a soli 26 anni, si spense a causa di un abuso di farmaci, di psicofarmaci che abitualmente usava nell'ultimo periodo della sua vita. C'è una cosa che disse sua sorella, poi diventerà una semi-star affermata nel cinema, e rispondendo a tutte le migliaia di domande sul fatto se Nick Drake si fosse suicidato o meno, lei rispose candidamente e letteralmente: "Non credo che Nick volesse uccidersi. Credo che le cose siano andate più o meno così. Nick ha svuotato la boccetta di pillola nella sua mano e se l'è messa in bocca dicendo a se stesso: al diavolo, se muoio pace, se non muoio da domani sarà tutto diverso." E lo stesso i media, non, soprattutto dopo la sua morte, che fece molto scalpore e che per fortuna, tra virgolette, fece conoscere a tutto il mondo la produzione di Drake, i media si accanirono spesso sui genitori e sulla sorella per cercare di capire gli ultimi giorni della vita di Drake. Lo stesso biografo ufficiale, che ovviamente non aveva molto materiale sul quale poter basarsi per scrivere una biografia di Drake, dal momento che non ci sono, come ho detto, né video né live, ma nemmeno di apparizioni così pubbliche, tranquille, se non nella primissima infanzia. Il biografo di Drake disse: "All'inizio ho sempre rimandato questo mio compito sul scrivere una biografia su Drake, perché ho sempre pensato potesse rivelarsi un compito assai deprimente." Invece, pian piano che prese dichiarazioni da parte di amici, conoscenti, ma anche da parte della stessa sorella e della mamma, capì come la storia di Drake fosse qualcosa di incredibile da raccontare. Già il fatto stesso che avesse una poetica molto diversa da tutto quello che c'era in quegli anni, perché parliamo ovviamente del dopo Woodstock e di tutta una scena rock che si incattivisce, tra virgolette, sempre di più. Una figura come quella di Drake, che addirittura rifiuta, dopo due soli live, di esibirsi in pubblico, perché non riesce a sopportare il fatto che la gente magari non possa parlare durante le sue esibizioni, e quindi svilire una musica così discreta lo rende veramente unico. Poi, come ho detto prima, grazie a alcune marche le canzoni di Drake sono iniziate a girare e molti artisti sono stati influenzati, fra i primi Elliott Smith, e anche lo stesso chitarrista dei REM si è sempre affidato alla produzione di Drake. Forse solamente Tim Buckley è riuscito insieme a Van Morrison, forse con Astral Weeks, a parlare e a esprimere concetti così fuori dal mondo, e soprattutto con questa efficacia. dopo Pink Moon, come ho detto, tentò un minimo di registrare altri pezzi, altri brani, e senza dubbio quello più scioccante è Black Eyed Dog, proprio questo cane infernale di cui parla Drake, secondo il quale, secondo molti, si rifece appunto a Robert Johnson, alla sua anima tormentata. È un Drake che quasi si stenta a riconoscere dalla voce, perché ovviamente già in fase di allontanamento, e quindi questa registrazione è ancora di più forse il suo testamento, che cerca di esorcizzare tutto quello che aveva avuto attorno finora. E questa è Black Eyed Dog. Black-eyed dog, he called at my door. A black-eyed dog, he called for La produzione di Drake uscita dopo la sua morte. Ci sono alcune chicche, tra cui una fly dedicata a una persona che stava lì con lui, e che forse si è detto potesse essere questa sua unica fiamma, della quale non si è mai detto il nome. Andiamo ad ascoltarci prima una sua versione bootleg di Fly, e poi una Summertime tratta appunto da delle registrazioni casalinghe. Till that moment, There's just not a thing that can harm you. With mommy and daddy standing by. Queste erano appunto registrazioni molto grezze, molto lo-fi, prese da alcune registrazioni casalinghe. E vorrei fare un passo indietro, tornando a Five Leaves Left, ossia l'esordio a soli 21 anni. E potenzialmente sarebbe stato forse uno degli autori e dei cantautori più prolifici, contando che a soli 24 anni aveva già dato alle stampe tre album e sulla soglia dei 26 stava già per produrre il quarto. Però intanto andiamo a sentirci Three Hours, che è una specie di suite, forse l'unica suite di Drake, nel senso che è una canzone molto molto articolata, e la tecnica chitarristica di Drake qui penso raggiunga livelli altissimi, nel senso non di un virtuosismo quale può essere, come ho detto prima, quello dei Guitar Hero, ma nell'approccio proprio a sperimentare accordature aperte sempre diverse per le sue canzoni. Questa è Three Hours. From sundown, Jeremy flies, hoping to keep the sun from his eyes. East from the city and down to the cave, in search of a master, in search of a slave. Three hours from London, Giacomo's free, taking his woes down to the sea, in search of a lifetime to tell when it's home, in search of a story never been known. 3 hours from speaking. Everyone's flat. Not wanting to be seen on their own. 3 hours is needed to leave from the mall. 3 hours to wonder. From his eyes, east from the city and down to the cave. In search of a master, in search of a slave. Dopo la suite di 3 hours, che sono esattamente le 3 ore che ci vogliono dal villaggio in cui stava Nick Drake di Tamworth in Arden per arrivare a Londra, vi lascio con una sua cover, sempre presa da quelle famose registrazioni casalinghe, un bootleg di Don't Think Twice, It's Alright, che è una delle canzoni più famose. Forse del più grande cantautore mai esistito sulla faccia della terra e che risponde al nome di Bob Dylan. E non mi resta che ringraziare tutti gli ascoltatori di Pink Moon che da un paio di mesi sono stati fedelissimi e numerosissimi e ci ribeccheremo presto, non so quando, non so dove, però so che ci ribeccheremo. E quindi vi abbraccio e a presto. Well, it ain't no use in sitting wondering why, babe, when the rooster crows at the break of dawn. Look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling on. Don't think twice, it's alright. Well, it ain't no use in turning on your light, babe. Light I never know. Ain't no use in turning on your light, babe. I'm on the dark side of the road. Wish there was something you could do or say. something to make me change my mind. Stay. We never did too much talking anyway. Don't think twice, it's alright. And it ain't no use in calling out my name, girl, like you never done before. Ain't no use in calling out my name, girl, I can't hear you anymore. I'm thinking and wondering, walking down the road. Once loved a woman, child, I'm told. Gave her my heart, but she wanted my soul. Don't think twice, it's alright. So long, honey, babe, where I'm bound, I can't tell. Goodbye's too good a word, babe, I'll just say fairly well. I ain't seen you treated me unkind, you could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. Don't think twice, it's alright.